Allora, benvenuti. Oggi ci addentriamo in un tema davvero cruciale, l'accessibilità digitale. E attenzione, non parliamo solo di scadenze normative tipo l'European Accessibility Act che arriva nel 2025. No, è qualcosa di più. È proprio un approccio che mette al centro l'inclusione, il rispetto per tutti. Per farlo ci guidano gli spunti dal libro di Antonio Palmieri, Accessibilità digitale per tutti. Vogliamo capire insieme perché è un diritto, certo, ma anche una scelta culturale e direi un'opportunità. Esattamente. Palmieri lo dice subito molto chiaramente. Non stiamo parlando di, come dire, beneficenza o qualcosa del genere. L'accessibilità è, prima di tutto, un dovere morale. Pensiamo all'articolo 3 della Costituzione, no? L'uguaglianza sostanziale. Ma poi, non dimentichiamolo mai, è anche una leva di mercato fortissima. Coinvolge milioni di persone, chi ha disabilità permanenti, ma anche temporanee, gli anziani, chiunque si trovi a usare la tecnologia in condizioni non perfette, diciamo. E l'Italia, è stata pioniera con la legge Stanca già nel 2004, quasi 21 anni fa. È una questione di civiltà digitale, di rispetto, appunto. Sì, e mi ha colpita molto questa idea del progettare by design e by default, che emerge dal libro. Significa quindi che non è una pezza che si mette dopo, ma è proprio nel DNA del progetto fin dall'inizio. Proprio così, hai colto il punto. By design vuol dire penso a tutti fin dalla primissima idea, tutti gli utenti possibili. E by default significa che le funzioni inclusive sono lì, attive subito, non nascoste in qualche sottomenù. E guarda, questo approccio non solo è più corretto, più rispettoso, ma porta quasi sempre a prodotti digitali migliori in assoluto, più usabili, più solidi, per chiunque li usi. Certo. E questo va un po' contro la tentazione facile, no? Quelle scorciatoie tipo gli accessibility overlay, strumenti automatici che promettono mari e monti. Il libro mi pare molto, molto critico. Assolutamente. Ed è una critica fondata, direi. Questi overlay spesso sono, beh, inutili. Anzi, a volte peggiorano le cose. Possono creare conflitti con le tecnologie assistive che le persone già usano, tipo gli screen reader, e danno un falso senso di sicurezza legale di essere a posto. Ma non è così. Il caso di Accessible negli Stati Uniti, che ha preso una bella sanzione, o la posizione molto cauta della Commissione europea, sono segnali, eh? Non è quella la strada. Come non lo è creare canali separati, siti per disabili. È una logica vecchia, sa quasi di segregazione, non funziona. Capisco. Quindi niente bacchette magiche automatiche. Sembra di capire che serva cura, attenzione al dettaglio. Il libro infatti cita proprio degli errori specifici, molto comuni, vero? Sì, Diana Bernabei ne fa un elenco utile. Ad esempio, un classico dei classici, la mancanza del testo alternativo per le immagini. Se non vedi l'immagine, come fai a capirne il senso? È un requisito base delle WCAG, il punto 1.1. Poi, strutture di titoli fatte male che rendono impossibile navigare la pagina in modo logico, o l'uso, diciamo, improprio della semantica HTML, tipo gli attributi aria usati a caso. Servono per aiutare, ma se usati male fanno più danno che altro. Insomma, serve attenzione sia tecnica che sui contenuti. E immagino che non riguardi solo siti e app, giusto? Questa attenzione. No, affatto, è un errore comune pensarlo. L'accessibilità è fondamentale anche per i documenti digitali. Pensa ai PDF, ai file Word. La norma tecnica UNI-EN 301/59 è chiara su questo. E poi l'European Accessibility Act avrà un impatto enorme anche dentro le aziende, sul lavoro, strumenti interni accessibili per i dipendenti, una cultura che promuove l'inclusione e anche la conformità alle leggi antidiscriminazione, come la nostra legge 67 del 2006. È un cambiamento a 360 gradi. Però ci sono anche segnali positivi, strumenti che aiutano. Nel libro si cita il Design System.italia per la pubblica amministrazione. Sembra un buon esempio. Attenzione, lo strumento da solo non fa il miracolo. Serve formazione continua, lo sottolineano bene Cesaretti e Caccavello nel libro, e serve soprattutto creare una vera cultura dell'accessibilità in azienda, che sia parte del modo di lavorare. Anche l'intelligenza artificiale può dare una mano, certo, magari per suggerire descrizioni per le immagini, però va usata con testa, criticamente, e l'IA stessa deve essere accessibile, eh? Non dimentichiamolo. Sì, questo è un punto importante. E ci porta a un concetto più ampio che Palmieri chiama tecnologia solidale, legato alla Fondazione Pensiero Solido. Di che si tratta in pratica? È un'idea molto bella, secondo me. Usare la tecnologia non per creare muri, divisioni, ma per costruire ponti. Uno strumento per unire le persone, per favorire la partecipazione di tutti. L'accessibilità, vista così, diventa una scelta culturale profonda. Mette al centro la persona, con tutta la sua diversità di bisogni, di capacità. È davvero un cambio di prospettiva, un atto di rispetto nel concreto. Quindi, se dovessimo tirare un po' le fila, il messaggio forte è che l'accessibilità non è un costo, un fastidio burocratico, è un investimento. Intelligente, direi. Migliora i prodotti, allarga il mercato potenziale, rafforza la reputazione. Alla fine è buon senso, è business, ma è anche, e forse soprattutto, rispetto ed etica applicati al digitale. Proprio così. È un investimento che ritorna, sotto tanti punti di vista. E per chiudere con uno spunto su cui magari continuare a pensare, uso le parole di Antonio Palmieri. Lui pone una domanda, semplice ma potente, rivolta alle aziende ma che in fondo interpella ognuno di noi. Quanto sarebbe giusto, utile, conveniente se ogni azienda attivasse un codice etico con il quale si impegna a rendere accessibile le proprie presenze digitali? Ecco, lascerei questa riflessione.